Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. È una giornata tipicamente lombarda, un po' fredda ma molto affascinante, e mi trovo nel cuore della pianura lombarda, nella Certosa di Pavia, questo straordinario edificio rinascimentale che venne costruito dai Visconti proprio in fondo al parco ducale del castello di Pavia, quindi in mezzo alle campagne, per diventare il grande mausoleo della casa dei Visconti. La Certosa di Pavia è un edificio storico molto importante e contiene delle opere d'arte singolari. Vi parlo di una di queste opere. Si tratta del cenotafio di Lodovico il Moro e Beatrice d'Este. Cenotafio significa tomba vuota, cioè semplicemente un monumento che non corrisponde alla tomba dei personaggi. E i due personaggi, Lodovico il Moro e Beatrice d'Este, ebbero un'importanza enorme per la storia di Milano. Erano rispettivamente il duca e la duchessa di Milano che ospitavano Leonardo da Vinci negli anni gloriosi, negli ultimi vent'anni del 1400. Infatti disponevano non solo di Leonardo da Vinci ma di scultori di primissimo piano, e questa curiosa tomba, che non è altro che un letto, è un letto matrimoniale dove i due coniugi sono stesi uno accanto all'altro, non si abbracciano ma sono stesi nella morte, perfettamente vestiti in un'eleganza di corte straordinaria, con i cuscini ricamati eccetera. E questo monumento venne realizzato dal più grande scultore lombardo del tempo, Cristoforo Solari, detto il Gobbo, che a noi oggi dice pochissimo, ma che fece preoccupare molto Michelangelo, perché quando Michelangelo in quegli anni fece la Pietà Vaticana, racconta Vasari che i primi che videro la Pietà Vaticana dissero: questa è un'opera di Cristoforo Solari, detto il Gobbo. E naturalmente Michelangelo si preoccupò moltissimo, e allora, per mettere in chiaro le cose, firmò con lo scalpello la Pietà di Michelangelo con la parola Michelangelo, in modo che non ci si confondesse. Il Gobbo lombardo Cristoforo Solari era lo scultore dei duchi di Milano. Io sono il giovane Michelangelo.